meu. Ei, que sempre já que fazile, que fazile. Sempre c'è che facile, con spezzino sognando vagnone. Ogni tentativo scende la voglia di riuscire. La sta col prova che tenta, a ogni insulto rimanda. La sta la gente consulta, ne fanno guida a voi. Che semplice, che facile, con spezzino sognando vagnone. Ogni tentativo scende la voglia di riuscire. La sta col prova che tenta, a ogni insulto rimanda. La sta la gente consulta, ne fanno guida a voi. Senti a me la se non sentire guido che dice. Sempre che un male te face, se li dai corda li piace. Caccia li da, soddisfazione con face, c'è volevo fare. Senti ci dice, sparsa cazzate. La state dice tutte le parole che vuole. E non capisco se ti invidio su decene. Se vuoi fare una cosa menti e fa la bagnone. Non insultare la gente, guarda, senza col giudichi. Ci giudica campione, allora mo te alzo le mani. Se si capace con lo faci, io ti ammiro, non tengo da dire. Se ti me porti rispetto, io te trato come uno frate. Ma se non me conosci, evita con farli male. Che è semplice, che è facile, con spezzino sogno al nuvagnone. Ogni tentativo, scende la voglia di riuscire. La sta col prova che tenta, a ogni insulto rimanda. La sta la gente che punta, che vanno e guido a voi. Che è semplice, che è facile, con spezzino sogno al nuvagnone. Ogni tentativo, scende la voglia di riuscire. La sta col prova che tenta, a ogni insulto rimanda. La sta la gente che punta, che vanno e guido a voi. Guapo, quando parli di me innanzi la gente guarda. Tu pagliaccio, poveraccio, campa così. Quando vuoi vieni te tacchi, stai sempre con me. Cerchi, vuoi, botte mai e no, non me pensare che. Molto rispetto a cinca, se lo merita. A cinca me tratta d'amico, ci me stai vicino. Non c'è sta storia, giro le spalle a ci non merita. Non merita e conta, conta solo per invidia. Allora fanne c'è poi. Che è semplice, che è facile, con spezzino sogno al nuvagnone. Ogni tentativo, scende la voglia di riuscire. La sta con prova contenta, a ogni insulto rimanda. La sta la gente con punta, che vanno e guido a voi. Che è semplice, che è facile, con spezzino sogno al nuvagnone. Ogni tentativo, scende la voglia di riuscire. La sta con prova contenta, a ogni insulto rimanda. La sta la gente conta, che vanno e guido a voi. Basta la volontà per decidere ogni cosa. Così non va, scendili che c'è in cammina. Tu sogno portarlo innanzi, non te ne fottire niente. Di tutto guido che ti circonda, non te fai mentire. Li vedi a un capo, con bessi vero te guido che faci. A me in totto sarei cinca, da palla la manda con baffa di che giusto pure così. Ma dopo che ha provato, dai deciso e si convinto che spegni. Lo sogno e sacchina di sterata.